140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Buongiorno da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. Una puntata speciale dedicata ai fumetti, quella di oggi di 140 caratteri. Mag Caffè, Milano. È uno dei più grandi fumettisti e illustratori italiani, papà di Rank Xerox, autore di grandi copertine di album, icona mondiale. Tanino Liberatore. Erano storie che uscivano, insomma, un po', erano lo specchio di quello che vivevamo tutti i giorni per strada, perché se vai a vedere ci sono un sacco di elementi, proprio di cose un po' accentuate, ma che si viveva tutti i giorni. E eravamo immersi in quella realtà e normale che poi riusciva fuori sulle cose che facevamo, insomma. E cosa rappresentava il fumetto come mezzo espressivo all'epoca? Ah, sai, noi non è che ci facevamo tanti problemi, noi ci piaceva il fumetto, lo facevamo e basta, insomma. Dopo gli altri, giustamente, con vero piacere, gli hanno tirato fuori tutte le cose socioculturali che pure è giusto che sia così, diciamo. Noi quando l'abbiamo fatto eravamo consci soltanto che ci stavamo divertendo e che facevamo delle cose un po' per ridere, nello stesso tempo dicevamo quello che ci piaceva e quello che vivevamo, insomma, eravamo consci di questo, però sinceramente non pensavamo che di arrivare a avere un impatto così immediato e universale, insomma. Per Frank Zappa hai disegnato la copertina di The Man from Utopia, ma è vero che lui diceva che assomigliavi a suo fratello? Con Zappa è stata una bellissima esperienza. No, quello disse così perché io gli chiesi, quando dopo aver fatto la copertina, lo incontrai in Francia, lui mi fece andare al suo concerto di Boulez, che aveva fatto, e io gli chiesi in quel momento se poteva farmi una prefazione a un album di illustrazioni. E mi dice: e dove stanno i disegni? Io dice: ma non ce l'ho, fai quello... come te lo immagini, come lo pensi tu. E lui dopo un po', perché dopo, per un po' di tempo non ebbi notizie, pensavo se ne fosse dimenticato, e invece dopo mi scrisse e diceva aveva avuto dei problemi agli occhi, no, e quindi questo momento, sì, allora, e diceva in pratica che uno che rassomigliava così a suo fratello non poteva che fare delle cose eccezionali. Frank Xerox, lo volle lui, mi disse voglio un Frank Xerox. Io al concerto di Napoli, dopo il concerto andammo a Posillipo a mangiare, a parlare della copertina, e a quel punto lui voleva raccontare tutto, insomma. All'inizio infatti doveva essere un fumetto di 6 pagine, 7 pagine, poi man mano si riduceva la cosa, e è rimasto front e back. E allora io, siccome a me non piacevano molto le copertine con troppi dettagli dentro, troppi messaggi dentro d'impatto, così, e preferisco invece un disegno forte che resta subito impresso, allora gli dissi: facciamo che io mi occupo del fronte e dietro ti faccio tutto quello che vuoi. E lui disse: ok, non c'è problema. Allora poi gli feci gli schizzi, gli mandai lo schizzo. Davanti avevo fatto sempre con lo schiacciamosche, ma l'avevo cancellato, però si vedeva. E lui mi disse: perché non lo rimetti? No, subito. Io pensavo che era troppo. E poi avevo disegnato una Gibson Les Paul, invece lui mi disse disegnava una Fender, perché era sponsorizzato dalla Fender, però lui suonava con le Gibson. E invece dietro mi misi tutto quello che era successo, cioè gli organizzatori che pensavano soltanto a sniffare coca piuttosto che organizzare, il Papa, la ragazza che fece conoscere Rank Xerox, perché si presentò come giornalista di Frigiderma con un Rank Xerox, con un album di Rank Xerox, e lui così. Quindi la ragazza non so se la fece, però Rank Xerox sì. Poi ci sta 3-1 vaffanculo, l'Italia che aveva vinto i famosi i lacrimogeni di Palermo, e il sole che era, quello era la luna con un faccione, lo volle perché lui adoperava un olio d'oliva italiano con il sole e il faccione, sai? Me lo disse lui, me lo voleva assolutamente. E quindi ho messo un po' tutto dietro, cioè, praticamente è andata così, è stato un bellissimo rapporto, perché il problema grave è stato proprio quello che io non parlavo inglese, se no avremmo avuto molto molto più... Lui però le parolacce le conosceva, quindi il 90% della mia lingua già lo capiva. Sei la mia chitarra, piange dolcemente, stasera non è sera di vedere gente, e i giochi nella strada, più chiusi dentro al petto, li voglio ricordare. Io penso ad un barcone rovesciato al sole, in un giorno in pieno agosto, le biciclette in riva al mare. Agnese mi parlava nella sabbia infocata, ed io non so perché non l'ho dimenticata. È la copertina forse più famosa, però la sua storia con le copertine era già lunga. Beh, quella è la più famosa, sì, la più, io ho cominciato, i miei lavori sono, cominciano, il mio lavoro, diciamo, ad essere indipendente economicamente, è cominciato con la RCA e fare le copertine della RCA. E l'avevo smesso nel 78, facendo l'ultima copertina di Ivan Graziani, Agnese Dolce Agnese, e prima ho fatto i Lupi, se no era proprio un lavoro mangereccio, insomma, perché delle volte mi telefonavano la mattina per una copertina per il pomeriggio, capito? Era tutta una cosa. Però era bene per farmi le ossa pure tecnicamente, insomma, dovevi risolvere dei problemi che se disegnavi da solo non si ponevano, insomma. Sì, è stato il mio. Quindi con la musica è stato sempre un rapporto importante, fondamentale. E a chi dice che tu hai ispirato Terminator e Blade Runner? È vero, questo non è che posso dirlo con certezza. Da fonti giornalistiche so che Cameron conosceva Rank Xerox. È possibile. La cosa sicura è che Rank Xerox è uscito prima di Terminator, prima di Robocop, pure prima di Blade Runner. Anche se penso che Ridley Scott, l'unica cosa in comune è Philip K. Dick. Il film di Ridley Scott era un po'. Però pure loro, almeno quelli dell'entourage, lo conoscevano, perché quando doveva essere pubblicato, doveva uscire in Europa, mi hanno contattato perché se volevo fare, per fare l'affiche del film per l'Europa. Poi non se ne è fatto niente perché non avevamo le stesse idee. Io non so se l'hanno copiato, comunque qualche cosa hanno preso. Io non ho copiato da Terminator né da Robocop, questo è sicuro, e manco da Blade Runner. Loro non lo so, la cosa certa è che io no, loro forse. What's the thing that is talking about everywhere? Cosa direste ai giovani d'oggi che vogliono dedicarsi ai fumetti? Per lavorare penso è sufficiente lo slancio, poi non ci stanno le strutture, le basi per poter fare quello che riusciamo a fare noi. Le piccole cose non esistono più, almeno la maggior. Adesso ho visto un sacco di ragazzi, che mi ha stupito comunque, si autoproducono, praticamente fanno loro tutto. E noi non quello non lo potevamo fare noi. Quel tempo con il distributore riuscivi sempre a ottenere un po' di soldi per pubblicare i diritti sulla vendita. Invece adesso penso che sia molto più difficile, anche perché se il mercato è molto uniformato, si va sempre solo in una direzione unica, mentre ai miei tempi era, ci stava certo un fiume davanti, però ci stava un sacco di ruscelli che avevano la possibilità di esprimersi, in effetti sia in musica sia in fumetti, in tutto, pure in letteratura era tutto molto più semplice, forse perché ci stavano ancora gli ideali. E le tecnologie, cioè il tuo rapporto con le tecnologie, secondo te le tecnologie hanno cambiato qualcosa in questo mondo? Ma io la tecnologia l'ho adoperata, insomma ci sono arrivato tardi, però l'ho adoperata pure abbastanza bene. Ma l'ho preso soltanto come una tecnica in più, eppure un modo diverso di poter usufruire del disegno. Cioè, ci stanno delle cose molto più comodo, insomma, lavorando al computer tu puoi cambia subito, poi ci sta il controllo Z che puoi sempre fare, insomma, che purtroppo quando io ho lavorato per 6 anni al computer, quasi esclusivamente al computer, poi quando ho ricominciato a disegnare dal vivo mi mancava proprio quel cazzo, bisognava sgommare. È stato un bene, perché invece dopo ho ricominciato a sgommare, è andato benissimo. Però quella è la cosa, il computer è quello, proprio per un disegnatore penso sia il controllo Z, specialmente se c'hai un coso potente, quindi puoi mettere 500 historic, no? Puoi andare indietro di 500, è fantastico. E quindi quando ti rimetti, allora là devi, cioè, cambia il rapporto col disegno, è vero che un'altra, però alla fine è una tecnica in più come quell'altra, insomma. Quindi io sono stato sempre qualcuno che a cui è piaciuto le tecniche nuove, l'innovazione, quindi non è detto che le seguivo, però mi piaceva e continuano a piacermi, insomma. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. Un grande personaggio della storia dell'illustrazione della TV nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Spazio Wow, Milano. Lo abbiamo incontrato alla festa per i suoi 80 anni, una leggenda del fumetto italiano, Guido De Maria. Beh, intanto buon compleanno. Grazie. Perché è un bel traguardo. Un bel traguardo, l'importante è arrivarci, poi domani finisce tutto, quindi vuol dire io compio gli anni, i mai me lo portano via da solo il culo, mica non mi piace mica questa cosa, capito? E va bene, comunque. Cioè io domani, cioè già oggi ho incominciato, sono andato alle 7:30 del mattino in un piccolo paesino di montagna, un attimo dopo io ero già entrato ufficialmente nell'81esimo anno di vita. Io sto compiendo le prime ore del mio 81esimo anno di vita. 81 anni dedicati alla bellezza, al disegno. Ma soprattutto al divertimento, guarda. Io sempre racconto sempre che il mio amico fraterno Francesco Cuccini racconta che dice: io ho imparato a suonare la chitarra perché con la chitarra cuccavo con le ragazze. Ora io ero un abilissimo suonatore di ocarina, però se prendevo l'ocarina, incontravo una ragazza, gli facevano spifferato d'ocarina, questo qua mi mandava a quel paese, insomma, non cucavo niente, capito? E ho capito che invece, così stimolando qualche sorriso, insomma, riuscivo abbastanza simpatico e la cosa, anche se non cucavo, quantomeno, insomma, avevo una certa possibilità, insomma, capito? E com'è cominciata tutta la storia e l'arte di De Maria? Ma la storia io incomincio al liceo proprio per questa ragione, per tentare di divertire. Cominciai a disegnare su un giornale scolastico e con questi disegnini, insomma, cominciai a diventare quello che facevi i pupazzetti, no? Al punto che quando si trattava di eleggere il capoclasse, no? C'era il capoclasse che era il responsabile della classe, no? Io vincevo sempre perché avevo i voti di tutte le donne. Poi c'aveva Luciano Rispoli in classe con me, quindi lui era già uno, si capiva che sarebbe diventato importante a noi, però io facevo ridere. Poi durante proprio l'università io scoprì questa voglia di continuare a divertire attraverso il disegno. Mandai i disegni ai giornali, capito? Furono accolti con molta simpatia e cominciai a pensare che forse, no, anzi sicuramente io dissi: ma che ce ne frega della matematica e fisica, io voglio fare il vignettista, voglio fare l'umorista, voglio fare queste cose. Ed è andato così, insomma. Ho cominciato prima facendo vignette per quasi tutti i settimanali e quotidiani italiani. Poi mi si presentò l'occasione di fare un cartone animato, mi ricordo, pubblicitario. Morte e rinascita di un capello. Per una nota brillantina, capito, che riassicurava i capelli, capito, il colore della gioventù. Niente, allora mi è capitato di fare questo cartone animato, questo spot pubblicitario, no? La cosa andò bene e io cominciai a capire che forse col disegno non è che mi assicuravo un futuro dorato, no? Mentre con la pubblicità, sì. Usi lei, c'era grei e vedrà che la casa pulita di più brillerà. Usi lei, c'era grei e vedrà che nessuno più scivolerà. Sono sempre l'Evaristo e mi scusino se insisto. Per aver la casa bella c'era grei, per la mastella. Che c'era! E allora cominciai appunto con i caroselli della cera grei. Una buona cera, un'ottima cera grei, che i primi erano a cartone animato, no? E poi dopo furono sostituiti i cartoni animati dai Brutus, e poi dopo ancora da Franco Franchi e Cecin Grassia, con i quali ho avuto addirittura una abitudine, capito, pubblicitaria per molti anni, perché sono stati addirittura testimoni delle mie nozze. Franco Franchi per me, no, per me, Cecin Grassia per mia moglie. Un matrimonio veramente poco serio, lo posso assicurare. Poi uno dei caroselli di cartoni animati che sono rimasti più nel ricordo di quelli che oggi hanno più di 60 anni erano quelli della Marina Fabri, cioè Salomone Pirata Pacioccone, lo possiamo torturare? Son Salomone il pirata Pacioccone e sol coi mari col mio fido galeone, con un forza pazienza so placare ogni violenza fra i corsari. Capitano, il presente governatore del Maracaibo si rifiuta di rivelare il nascondino del tesoro, lo possiamo torturare? Al che Salomone Pacioccone, capito, accomodando, dice: ma cosa vuoi torturare tu? Porta pazienza a tuo benio, come fargli aprire la bocca, basta offrirgli una Marina Fabri. Cosa di cui mi vergogno ancora oggi dopo 50 anni, eh? Però sono rimaste la storia. Però insomma hanno costruito, sì, sono rimasto. E da lì poi, ecco, no, poi dico pubblicità finché Giancarlo Governi, che allora era responsabile della seconda rete, programmi speciali della seconda rete, pensò, proprio vedendo, tu pensa quanto Modena è stata importante non solo nella mia vita, ma anche nella storia anche di Supergulp, no? Modena, c'era la Paul Film, che era un grosso complesso di cartoni animati, Totetata, Angelino, Svanitella, Riccardone, Ormerendero, tutte queste cose. E lui si accorse che Campani, in una storia, attraverso delle immagini praticamente non animate, però con dei movimenti di camera che si muovevano all'interno dell'immagine, raccontava un carosello. Disse: ma allora si può raccontare anche un fumetto. E così chiesero a Bombi e a me di realizzare un prototipo. E noi facemmo il primo numero di Riccardo, io scrissi la storia, tratteggiai da un punto di vista così letterario il personaggio, Bombi lo disegnò. Io ho sempre detto che il cartone animato, il fumetto era il cinema dei poveri, in fondo, perché tu leggevi una cosa, la vedevi, capito? Soprattutto, diciamo così, la trovata, quella che ha fatto sì che questo fumetto fosse accettato e quasi scambiato per un cartone animato, era che io facevo apparire, capito, la nuvoletta sul personaggio in che momento parlava. Stabilivo un rapporto preciso tra personaggio, battuta e nuvoletta, anche perché la nuvoletta faceva parte da un punto di vista iconografico del disegno. Mentre su New York calavano le ombre della notte, in un angolo buio della 27ª strada, l'agente Donovan e il sergente Callaghan della polizia scoprivano, serenamente composto nella pace di chi non ha più pensieri, il corpo di un uomo. Che si tratti di un suicidio. In questa faccenda c'è qualcosa che non va. Qui ci vuole Nick Carter. Carter, Carter, Carter, Carter. Questa cosa funzionò al punto che ci dissero: va bene, allora fate Gulp, un piccolo programmino di un quarto d'ora, e nacque Gulp, che tu non hai potuto vedere perché sei nata dopo. Io sono nata dopo, io sono della generazione di Supergulp. Però Supergulp, e sai perché poi dico hai avuto questa fortuna? Perché ebbe tanto successo questa prima trasmissione, no? Al punto che impensierì Mike Buongiorno, per l'altra parte c'era il riscattore di Mike Buongiorno. Ci chiamarono in Rai e dissero: fatene 50, 60, 100 puntate. Madonna, dico, noi abbiamo assicurato la vecchiaia, capito? Poi torniamo a casa, ma proprio in preda all'euforia più totale, più assoluta, e per 5 anni non abbiamo più saputo niente, perché la Rai aveva consumato tutto nei budget per le coproduzioni importanti, il museo con Bart Lancaster e queste cose. Dopo poi con l'avvento alla direzione della seconda rete, la riforma, quindi Massimo Fichera, un uomo di una intelligenza, di una... veramente un grande direttore, lui disse: ma non avevamo un programma che funzionava, che era dedicato ai fumetti? Ci richiamarono e da allora cominciò Supergulp. Disse: no, un programma più grande, più importante, mezz'ora, poi anche 50 minuti. Venendo a mancare Carosello, veniva a mancare l'ossigeno, quindi il Bozzetto, la Cineteam, la Recta, tutti queste case di produzione che facevano caroselli, e io le impegnai a fare questo programma. Tutto veniva portato a Modena, veniva montato a Modena, e poi io ripartivo con la mia macchinina, con queste piste enormi, capito, e andavo a Roma a mettere in telecinema e a passarle, capito, una cosa, guarda. Però lei ha anche scalato le hit parade. Super Gulp! I fumetti, i fumetti, i fumetti, i fumetti, i fumetti, Sine Sigre, ma tu pensi che Giumbolo vendette? Mi chiamo Giumbolo, Giumbolo. Maestro Godi, qua, guarda, qua c'è anche il Maestro Godi. Ecco, Franco Godi è l'autore delle musiche di... prima di Salomone Pirata Pocioccone, sono tutte sue. E poi per Super Gulp ha fatto alcune cose, il gruppo TNT, capito? TNT, TNT. Poi, va, va, va, va. E poi cosa hai fatto ancora per Super Gulp? Marzolino Tarantola. Ah, Marzolino Tarantola, yeah. Poi dopo, e poi i due giumboli, uno giumbolando, giumbolando e giumbolo. Sì. Hai capito? Eccomi qua. Mi chiamo Giumbolo, Giumbolo, Giumbolo. Io sono felice, sempre gongolo e rigongolo. Quando mi muovo io pallonzolo, pallonzolo, poi gongolo e rigongolo la notte e il dì. Mi chiamo Giumbolo, Giumbolo, Giumbolo. Io sempre rido quando dondolo e ridondolo. Ma se girondolo io ciondolo e rigiondolo, poi gongolo e rigongolo la notte e il dì. E quando gongolo lo divento il simbolo lo di tutto quello lo che gioia dà. E quando gongolo lo divento il simbolo lo di tutto quello lo che gioia dà. Ragazzi, vi chiedo un'ultima cosa. Lo sapete, è vero che avete formato una generazione, la mia? Ai noi sì, lo sappiamo, perché non so quanto li abbiamo devastati o quanto li abbiamo comunque educati a leggere il fumetto. Il fumetto era un genere che veniva anche in qualche volta, era anche detestato, un po' era anche quasi proibito. Quando ero piccolo io li leggevo di nascosto sotto le coperte con una alla luce di una pila, capito, che quello rendeva cieco, mica altre cose, capito? Bravo. Come c'è sempre delle definizioni ad hoc. E quindi, voglio dire, quelli che non avevano mai letto fumetti, non erano più, perché ci vuole una capacità per leggere fumetti, c'è un modo, e li avevo abituati con Super Gulp a leggere i fumetti, capito? Quindi ho anche abituato una generazione a dedicarsi al fumetto. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.